Buongiorno Palestina. Questo è il nome di una trasmissione da Radio Wombat da oggi e per ogni mercoledì dalle 19 per mezz'ora. Si dirà quello che sulla Palestina non vogliono che si sappia. Si tratterà di notizie, dati, interviste, rassegne stampa, recensioni, eventi, storia, ma insomma sarà qualcosa di ben diverso dalle informazioni asservite che voi vedete dai maggiori organi di informazione, televisioni, quotidiani, perché questi si attengono alle veline che gli vengono passate dall'ambasciata israeliana, tanto per dire le cose come stanno. Quello che abbiamo sentito era la voce di Claudio, che così apriva la prima trasmissione un anno fa. Era la numero zero e fu dedicata al report pubblicato dal Ministero della Salute palestinese di Gaza sugli attacchi delle forze militari israeliane contro i manifestanti palestinesi durante la grande marcia di ritorno nel periodo dal marzo 2018 al maggio 2019. E poi seguì la relativa rassegna stampa dei principali quotidiani tratta da un articolo di Patrizia Cecconi. Lo spazio che ci ha offerto Radio Wombat in questo anno ci ha dato la possibilità di dare notizie e diffondere un'informazione sì su un'area del mondo che è terreno di conflitti che condizionano l'intero pianeta. Avere la possibilità di poter parlare su quel che non si deve sapere sulla Palestina per la rete di complicità, pressioni e interessi che consentono allo Stato di Israele di asservire le principali testate nazionali e internazionali, è stato il terreno su cui abbiamo accettato di misurarci. Abbiamo dato notizie storiche per risalire alle radici del conflitto, quali il colonialismo ebraico, le guerre arabo-israeliane, le politiche di espropriazione della terra e altro ancora. Abbiamo mandato in onda audizioni in commissione esteri della Camera sulla questione palestinese, registrazioni del Consiglio Comunale di Firenze sul tema delle annessioni e della situazione dei campi profughi in Libano, fatto interviste a giornalisti, esperti, attivisti che si occupano di Medio Oriente, recensito libri sulla questione palestinese. Abbiamo cercato poi di aprire sempre le nostre trasmissioni con un notiziario che aggiornasse sui fatti della settimana riguardanti la Palestina. I riscontri sono stati positivi e ci hanno incoraggiato a proseguire cercando di migliorare sempre più il nostro impegno comunicativo ed è quindi a questo proposito che vi possiamo annunciare una novità. Il sito di Radio Wombat vi apparirà presto in una nuova versione e la nuova piattaforma consentirà di interagire con voi ascoltatori e quindi di avere una migliore verifica del nostro modo di operare. Le modalità di questa nuova prestazione verranno comunicate in seguito, non appena avremo un quadro più preciso di come utilizzare il nostro canale. Riguarda l'argomento di oggi, è ancora di cultura palestinese che parleremo, ma di quel tipo di cultura che si esprime attraverso il cinema, e dunque parleremo di cinema palestinese. La persona che incontriamo oggi è Riccardo Boccu, professore di sociologia politica all'Istituto di Studi Internazionali e dello Sviluppo di Ginevra. Il professor Boccu ha oltre 35 anni di esperienza della situazione politica, culturale ed economica in Palestina, Israele, Giordania e in Libano, dove ha vissuto per diversi anni svolgendo attività di studio e di ricerca incentrate sugli aiuti internazionali nei contesti conflittuali ed in programmi di costruzione di pace. Il professor Bocco ha una profonda conoscenza della filmografia palestinese, sia per quanto riguarda il cinema per il grande pubblico, che per quanto riguarda la documentazione filmografica. Nel corso di questa trasmissione ascolterete musiche e dialoghi tratti dalle colonne sonore di film, di cui vi daremo informazione volta per volta e di cui troverete descrizione anche sul blog della pagina di Buongiorno Palestina numero 43. Prima di passare la parola alla consueta rassegna stampa della settimana, vogliamo ricordare la manifestazione di sabato 30 maggio. Ci troveremo davanti alla ASL Santa Rosa, su Lungarno Santa Rosa a Firenze, alle ore 17 in fila indiana e distanziati di 2 metri per manifestare su salute, lavoro, ambiente, diritti e scuola. Le notizie dalla stampa, dalla Palestina e sulla Palestina dell'ultima settimana. Ultima settimana marcata dalla festa dell'Eid, che chiude il mese del Ramadan, quindi è la più importante celebrazione della religione musulmana, molto sentita naturalmente in Palestina, e naturalmente quest'anno le celebrazioni si sono svolte in tono minore, ma a Gaza per l'occasione sono state anche riaperte le moschee. E c'è un bel reportage fotografico che si può vedere sul sito di The Palestine Chronicle. E lo stesso giornale ci riferisce anche di scontri avvenuti proprio in occasione della festa presso la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, che è chiusa a causa della pandemia, ma un gruppo di fedeli ha cercato di pregare più vicino possibile ai luoghi sacri presso la Porta dei Leoni ed è stato brutalmente attaccato dalla polizia israeliana, che ha arrestato diverse persone. Passando alle notizie politiche, si registrano reazioni alla prevista annessione della Cisgiordania annunciata con il nuovo governo israeliano. Il presidente dell'ANP, Mahmoud Abbas, ha annunciato piuttosto pomposamente la fine di tutti gli accordi con Israele e con gli Stati Uniti. Le prime reazioni sulla stampa sono piuttosto scettiche, visto che non è la prima volta che Mahmoud Abbas fa questa minaccia, senza che poi ci siano grandi conseguenze sul piano pratico. Ma come leggiamo sul manifesto del 23 maggio, si registrano alcuni primi passi concreti. Sono state ritirate le unità della sicurezza palestinese da Gerusalemme Est, che stavano lavorando insieme alle forze israeliane per far rispettare le prescrizioni del Covid. È stato anche comunicato che cesserà la collaborazione sul piano della sicurezza. Un altro passo forte fatto dall'autorità palestinese è stato quello di rifiutare degli aiuti sanitari inviati dagli Emirati Arabi attraverso Israele. Sono aiuti che non erano stati richiesti né concordati, e questa decisione chiaramente è in polemica col fatto che gli Emirati Arabi stanno offrendo collaborazione al cosiddetto piano di pace di Trump, che prevede appunto l'annessione di gran parte della Cisgiordania. E finora non ci sono particolari reazioni da parte israeliana a questi annunci fatti dall'autorità palestinese, ma l'esercito ha già fatto sapere che l'interruzione del coordinamento sulla sicurezza comporterà un aumento delle incursioni dell'esercito israeliano nei territori occupati. E c'è una reazione, almeno verbalmente, piuttosto forte anche da parte del re di Giordania, che, come ci dice Al Jazeera, ha parlato di un possibile esteso conflitto se l'annessione dovesse essere portata a termine. Anche qui non è chiaro quelle che saranno poi le reali conseguenze pratiche. Sui giornali in questo periodo si leggono poi molte analisi riguardo le conseguenze sullo scenario israelo-palestinese della pandemia e di questa nuova situazione del governo israeliano deciso a perseguire il piano di annessione proposto da Trump. In particolare segnaliamo un lungo intervento di David Hirst, che è il caporedattore del Middle East Eye, nel quale vengono messe in evidenza le obiezioni interne nell'apparato, diciamo, governativo israeliano al piano d'annessione da parte delle forze di sicurezza, le quali sono scettiche sul piano di annessione non tanto per amore dei palestinesi, naturalmente, ma perché temono le conseguenze per quanto riguarda la sicurezza israeliana. E viene citato in particolare un documento pubblico tutti un think tank israeliano che si chiama Istituto per la Politica e la Strategia, dove si elencano tutti i pericoli alla sicurezza israeliana che potrebbero derivare dalla destabilizzazione del confine orientale, quindi dei rapporti con la Giordania, dall'indebolimento dell'autorità palestinese con il pericolo di una nuova intifada, l'indebolimento delle alleanze con i paesi arabi e infine viene citato anche il possibile incremento della campagna BDS, della campagna di boicottaggio. E sui giornali israeliani degli ultimi giorni, invece, le prime pagine sono tutte dedicate al processo a Netanyahu, che è iniziato domenica. È la prima volta che un primo ministro israeliano viene processato. Nel primo round, Netanyahu ha attaccato l'intero sistema giudiziario, forte del sostegno politico datogli dalla larga maggioranza che sostiene il suo governo in Parlamento. Un'ultima notizia che è locale, i due consiglieri dell'opposizione di sinistra a Palazzo Vecchio, Palagi e Bundu, hanno presentato una proposta di risoluzione per condannare le politiche discriminatorie contro i palestinesi con cui le autorità israeliane hanno affrontato l'emergenza Covid. E c'è stata una reazione piuttosto rabbiosa da parte dell'Associazione Italia-Israele che ha mandato a tutti i consiglieri e assessori del comune una lettera molto forte in cui addirittura i proponenti vengono accusati di essere strumenti della propaganda iraniana e addirittura una propaganda filonazista. E vedremo che cosa farà il Consiglio. E con questo è tutto per questa settimana. Come preannunciato, iniziamo questo primo intervallo musicale con una piccola parte della colonna sonora del film del 2002, Intervento Divino, film scritto, diretto e interpretato dal regista palestinese Elia Soleiman, vincitore del premio della giuria al 55° Festival di Cannes. La voce è di Natasha Atlas, una cantante belga conosciuta per la sua fusione della musica araba con la musica etno-elettronica, accompagnata da Amon Tobin, musicista e disc jockey brasiliano. Riprendiamo ora la trasmissione in questa nostra giornata di primo compleanno, come dicevamo all'inizio, in quanto Buongiorno Palestina iniziò le trasmissioni esattamente un anno fa. E oggi ci fa l'onore di essere con noi tre della redazione il professor Riccardo Bocco dell'Istituto di Studi Internazionali di Ginevra, il quale da oltre 35 anni svolge attività di studio e di ricerca sulla questione palestinese, avendo anche a lungo soggiornato in Palestina. Al professor Bocco, che è sociologo ed esperto specialmente in documentazione cinematografica, quel che chiediamo è: la vicenda palestinese è documentata attraverso la filmografia? Sì, si può dire che il cinema palestinese è largamente un cinema di memoria in due sensi, cioè non solo del rapporto al passato che i registi attuali o nel tempo hanno espresso attraverso la loro filmografia rispetto alla questione della guerra del 48, della guerra del 67 e le conseguenze, Quindi è un cinema di memoria rispetto alla perdita della terra, della Palestina, e delle conseguenze di questa perdita in termini del dramma dei rifugiati, dei profughi palestinesi. Quindi attraverso questi due grandi elementi, la dispossessione e la questione dei profughi, tutta una parte della filmografia palestinese si snoda fino ad oggi, ma c'è ugualmente un'altra dimensione della memoria, cioè la memoria del presente, nel senso in cui una parte di film, sempre più importante, contribuisce a raccontare la realtà palestinese dell'occupazione, la realtà palestinese della diaspora. Ecco, quindi costituiscono un archivio della storia palestinese estremamente importante e quest'archivio si snoda certo con dei documentari, ma direi che la forza del cinema palestinese, più che nei documentari, è nella qualità delle fiction, eh? E che quindi è anche la capacità a poter parlare a un pubblico che non è solo palestinese, che non è solo arabo, ma che include diciamo vari paesi. Ecco, questa filmografia da quando? Adesso lei mi ha parlato dal 48 in poi, ma è anche precedente nella storia della Palestina? Ma guardi, storicamente, come dire, la storiografia del cinema palestinese tende a indicare in un cortometraggio del 1935 il primo documentario palestinese che era stato fatto a Gerusalemme all'occasione della visita del re saudita ai luoghi santi di Gerusalemme. In realtà, e questo trovo sia la cosa più interessante, è che c'è un legame che sussiste dagli inizi del secolo fino ad oggi con il Cile. Perché il Cile? Non solo perché il Cile è uno dei paesi, è il paese in America Latina dove si concentra la maggioranza dei profughi palestinesi e dei migranti palestinesi, eh? Cioè le migrazioni palestinesi di fine del XIX secolo verso l'America Latina conoscono un fulcro nel Cile. Si tratta principalmente, ma non esclusivamente, di migranti palestinesi di religione cristiana. Oh, cosa succede? Che negli anni 20, inizio anni 20, due fratelli, i fratelli Lama, dunque palestinesi cileni, decidono di venire in Palestina e di controbattere in un certo senso la propaganda sionista sulla Palestina. Cioè, negli anni 1910 cominciano ad esserci tutta una serie di film, documentari finanziati dal Movimento Sionista Internazionale per dare una certa immagine della Palestina come una terra disabitata, come una terra dove i migranti ebrei dalla Russia o dall'Europa contribuiscono a trasformare questa terra più o meno disabitata, incolta, eccetera. E quindi i fratelli Lama prendono la nave dal Cile e devono arrivare in Palestina, solo che saranno impediti di arrivare in Palestina, dovranno fermarsi al Cairo e lì metteranno in piedi in realtà la prima casa di produzione cinematografica palestinese. D'altronde c'è un bellissimo documentario sui fratelli Lama, che è disponibile gratuitamente sul web, di Raed Dusdar, Dusdar Duzdar, che è un regista palestinese che ha fatto essenzialmente dei documentari, questo sui fratelli Lama e un altro molto bello ugualmente sulla radio palestinese durante la Seconda Guerra Mondiale, che si chiama Jerusalem Calling. Bene, perché evoco questi inizi dei fratelli Lama? Perché la cooperazione con il Cile, in termini di registi, arriva fino ad oggi. C'è uno dei due grandi registi cileni, che si chiama Miguel Littin, che Littin e palestinese, anche lui di origine, non solo ha contribuito durante gli anni della dittatura a tutta una serie di film estremamente importanti. Miguel Littin lavorava con Patricio Guzmán, anzi era il suo capo al Ministero della Cultura degli anni di Allende. E Miguel Littin, a partire dalla seconda intifada, ritorna in Palestina e comincia pure lui a filmare sulla Palestina. Devo dire che i suoi film sulla Palestina non sono straordinari, ma almeno questo è un giudizio assolutamente personale, mi chiedo scusa, ma quello che è importante è che Miguel Littin cerca di contribuire negli anni 2000 creando una ONG e un fondo a Betlemme per costituire una Accademia di Cinema per i giovani realizzatori palestinesi, no? E quindi, voilà, per rispondere alla sua domanda, evocavo questo prima tappa di storica sulla costruzione, se non del cinema, nel caso della produzione cinematografica, ma sicuramente la prima fase importante del cinema palestinese è una fase che nasce in parallelo con la creazione dell'OLP. E questo è il periodo che va grosso modo fra il 1968 e il 1982, che viene chiamato il cinema rivoluzionario palestinese. Oh, c'è un capofila di questo movimento, dunque l'OLP organizza le sue unità filmiche in seno al Fatah, al movimento, al Fronte Popolare e come si dice in italiano, PFLP, DFLP, il Fronte Democratico e il Fronte Popolare. E in seguito c'è un capofila di tutto questo che si chiama Mustafa Abu Ali. Mustafa Abu Ali diventerà un simbolo della cinematografia palestinese attraverso un celebre documentario che è disponibile gratuitamente sul sito web, che si chiama They Do Not Exist, cioè loro non esistono. Perché questo titolo e perché nel 74? Cioè, nel 74 è anche l'anno in cui l'OLP viene riconosciuto come membro osservatore alle Nazioni Unite, il celebre discorso di Arafat, e in parallelo Mustafa Abu Ali cosa fa? Prende a contropiede un'affermazione di Golda Meir che nel 1948, dopo la guerra in Palestina, anzi nel 1949, viene intervistata da un giornalista americano che le dice: "Ma signora Golda Meir, e adesso che farete con i palestinesi?" E lei risponde: "Dice, i palestinesi non li conosco, non esistono, ci sono solo degli arabi e quindi gli arabi potranno andare nel mondo arabo." Quindi potentemente nega l'esistenza di un'identità palestinese e quindi Mustafa Abu Ali prende il contropiede dell'affermazione di Golda Meir e fa un documentario dove fa vedere chi sono e dove sono i palestinesi, cioè essenzialmente nei campi di rifugiati. Oh, questo cinema, detto il cinema rivoluzionario palestinese, è un cinema che certo ha una base in Palestina, ma è ugualmente un cinema internazionale, internazionale nel senso in cui vari registi arabi e europei partecipano a questo movimento. E per darvi degli esempi, cioè, non solo c'è Jean-Luc Godard che farà parte con il movimento Ziga Vertov e ugualmente di questo appoggio al cinema palestinese, ci sarà anche un italiano, Pino Adriano, che filmerà questo celebre è molto importante, anche questo è disponibile gratuitamente sul web che si chiama Tell el Zatar. Ecco una domanda. Questi registi palestinesi come si formano? Cioè, qual è il loro iter culturale e da dove traggono le capacità anche tecniche di regia? Allora, i registi palestinesi del cinema rivoluzionario palestinese hanno una cosa in comune con altri registi arabi, cioè che tutti hanno beneficiato negli anni 60 e negli anni 60, 70 di borse di studio per accademie di cinema in vari paesi dell'est europeo e in Russia. E e lì si conoscono e insieme formeranno una rete. E quindi ci sono degli iracheni come Qais Zubaydi, ci sono degli egiziani, ci sono dei siriani, ci sono dei palestinesi, dei libanesi come Jean Shamoun, che poi diventerà il marito di May Masri, un'altra regista palestinese molto importante. Cioè, tutta questa generazione beneficia poi anche di quello del successo che ha l'ONDP negli anni 70. Cioè, menzionavo prima Pino Adriano, perché? Perché l'Italia negli anni 70, attraverso il Movimento Operaio di Roma, attraverso i sindacati, attraverso una parte della sinistra italiana, sarà molto presente nelle attività culturali dell'ONDP e offrirà in Italia stessa una tribuna per poter vedere, diffondere le questioni della causa palestinese. Oh, però tutto questo, cioè il cinema rivoluzionario palestinese, finisce tra virgolette nel 1982. Perché? Perché nel 1982 Israele invade il Libano e quindi non solo il sud del Libano, ma Beirut, e quindi occupa gli headquarters, cioè la sede dell'OLP a Beirut. E una delle prime cose che fanno è che sequestrano tutti gli archivi dell'Istituto di Ricerca Palestinese e dei film palestinesi. Per lungo tempo si è pensato che gli israeliani li avessero distrutti questi archivi. In realtà non li hanno affatto distrutti. Li hanno semplicemente tenuti e conservati e sono attualmente al Ministero della Difesa israeliana, a Tel Aviv. E questo, okay, anche qui c'è tutta una storia di film attorno alla saga della scomparsa, della distruzione, della confisca di questo cinema palestinese, che però, è stato in parte ritrovato e su cui oggi una serie di registi hanno giustamente fatto dei film. Uno dei più recenti è quello di Mohammad Yaqubi, che si chiama Off Frame. E Off Frame ricostruisce una parte della storia del cinema palestinese, cinema rivoluzionario palestinese. Beh, a questo punto direi che l'altra fase importante da seguire nel cinema palestinese è quella dal 1982 in poi. E quindi è questo cinema palestinese che viene chiamato indipendente perché il ruolo dell'ONDP scompare. Ecco, di questa seconda fase ne possiamo parlare dopo un breve intervallo musicale? Sicuramente. In questo intervallo musicale ascoltiamo un brano tratto dal film documentario Tal el-Zaatar, La collina del Timo, regia di Ali Abu, Mustafa Pino Adriano, Jean Shamoun del 1976. Il film ricostruisce la storia del campo quartiere di Tal el-Zaatar e della sua resistenza nel contesto della guerra libanese, così come l'hanno raccontata i protagonisti, gli uomini, le donne e i bambini palestinesi e libanesi abitanti nel campo e sopravvissuti alla tragedia. Sono un abitante di Tal el-Zaatar. La battaglia è cominciata esattamente alle 7:10 del mattino. Sono cadute tante bombe che nessuno ha potuto contare. Thank you. ترى لا ينبت إلا فوق التل وتحت التل واسأل عنه الريح تندل إن الزعتر يختصر الزمن فينبت في الماضي والحاضر والمستقبل إن الزعتر يمحي كل حدود الأرض فينبت في الماء وفي الصحراء في الماء وفي الصحراء وعرفت لماذا لماذا لماذا عرفت لماذا وعرفت لماذا. Il timo cresce sul colle e ai piedi del colle. Chiedilo al vento e saprai. Il timo unifica il tempo, cancella i confini, cresce nell'acqua e nel deserto. Ora so perché un giorno a Beirut bande di fascisti, rinnegati e separatisti assediarono il timo. Ora so perché l'odore del timo è più forte di tutti gli odori di questo secolo ebro di notte. Ora so perché la terra è assediata dal timo, perché la terra è assediata dai poveri, perché la terra è assediata dal futuro. أصبحت الأرض محاصرة بالمستقبل أصبحت الأرض محاصرة بالمستقبل حضرة المقاتلين بكل تسالب وكل شدة. I nostri combattenti hanno agito con coraggio e fermezza. Fin dall'inizio il loro atteggiamento è stato duro e coraggioso, nonostante il nemico usasse armi impressionanti. E da allora in poi si apre una nuova fase, si è detto. Sì, una nuova fase che sarà segnata dalla presenza prima di registi palestinesi. Sono tutti dei registi, dunque parlo di grandi nomi come Michel Khlefi, come Mohammed Bakri, come Hani Abu Assad, Elia Sleiman, che sono dei registi tutti cittadini palestinesi di Israele, maggioritariamente di Nazareth, che questi seguiranno delle formazioni in genere all'estero. È il caso di Michel Khlefi, che lascerà Israele e la Palestina per andare ad abitare in Belgio, dove vive fino adesso. Ci sarà Hani Abu Assad, che lui di origine è poi un ingegnere aeronautico e che arriverà al cinema a un certo punto della sua vita, partirà in Olanda, dove vive attualmente. Ma quello che voglio dire è che c'è un va e vieni costante di questi registi e quelli della diaspora fra la Palestina storica e la loro vita altrove, perché hanno anche bisogno di trovare fondi, di finanziamenti per produrre i loro film. Direi quello che se guardiamo poi geograficamente all'interno della Palestina storica lo sviluppo della cinematografia, ecco, direi per iniziare che c'è un film che renderà come dire comprensibile e sconvolgerà i cliché sui palestinesi, che sarà questo film degli anni 80, 1987-1988, di Michel Khlefi, che si chiama Nozze in Galilea. Nozze in Galilea rimane fino ad oggi, a mio avviso, un piccolo capolavoro, sia da un punto di vista della narrativa del film, una fiction, e esteticamente parlando. E questo film aprirà la via, come dire, a una filmografia palestinese che progressivamente conquisterà un pubblico europeo, e ben al di là del pubblico europeo, direi. Diciamo, Ho parlato brevemente della scena dei registi israeliani, palestinesi, cittadini di Israele. Chiaramente c'è tutti i registi della Cisgiordania e di Gaza. Gaza rimane molto interessante anche da questo punto di vista, perché sia nel passato come oggi, malgrado tutto quello che si possa pensare di una situazione catastrofica, eccetera, la scena culturale nel senso largo a Gaza è estremamente viva, e quella cinematografica pure. Non si può non menzionare a questo proposito dei piccoli giganti, direi, del cinema di Gaza, come Abdesalam Shehadeh. Abdesalam Shehadeh ha fatto essenzialmente dei documentari, ma con un tocco poetico straordinario, straordinario. Uno dei suoi più celebri si chiama Tu My Father, a mio padre, perché il padre di Shehadeh era un celebre fotografo. E quindi lui ricostruisce attraverso questo documentario una storia di Gaza attraverso la fotografia. Poi c'è, per menzionare un altro regista di Gaza, Khalil Muzayem. Khalil Muzayem è autore di una serie di documentari e fiction. Uno che mi è piaciuto in particolare si chiama Gaza 36 mm, che è una storia dei cinema a Gaza, cioè dei cinema a Gaza, le sale di cinema, dagli inizi del secolo a oggi, e quindi le storie delle aperture e chiusure con l'arrivo di Hamas e poi della riapertura, sempre sotto il governo di Hamas, dei cinema a Gaza. In Cisgiordania la scena cinematografica anche lì è molto vivace. Non si può non menzionare un regista come Rashid Masharawi, che in realtà Rashid è originario di Gaza, e lui non ha una scuola di cinema particolare, cioè lui impara a filmare durante la prima intifada perché è giovane e lavora con dei giornalisti europei o americani che sbarcano per filmare. Lui comincia a portare le telecamere, poi insomma inizia ad imparare a filmare. D'altronde il suo primo lungometraggio, che rimane a mio avviso un gran film, si chiama Curfew, cioè coprifuoco, che è una storia in Basque Law durante la prima intifada di una famiglia sotto coprifuoco, un vero gioiellino nel suo genere. Boh, poi abbiamo tutta una serie di registi della Cisgiordania di una generazione più recente, e quindi mi riferisco a gente come Rai Dandoni di Betlemme. Rai Dandoni direi partecipa oggi a un nuovo genere del cinema palestinese, e direi c'è lui, Mai Masri, Khaled Jarrar, e altri, e Bassem Jarbawi, che tutti hanno questa caratteristica di fare un lavoro sul reliving, quindi attraverso delle fiction, di ricostruire che cos'è la vita dei prigionieri in prigione, che è un tema estremamente importante per la società palestinese. Ma il modo in cui lo filmano, è un linguaggio cinematografico che va al di là della Palestina. E direi che se questi film, possono essere tra virgolette particolari, perché chiaramente, quello che filmano, come lo filmano, la drammaticità del soggetto, ecco, insomma, è meglio aver mangiato prima di andare a vedere questi film, se no lo stomaco sarà un po' in subbuglio. Questo detto, ecco, ho parlato per il momento di una serie di registi nella Palestina storica, ma cioè, la cosa è anche molto più larga. Senta, professor Bocco, le volevo chiedere se nello scenario della filmografia, cortometraggi o documentari che siano, compaiono anche delle registe donne. E se sì, quali temi hanno affrontato? E se esiste quindi, come dire, una specificità di produzione riconducibile alla differenza di genere? Sì, guardi, ci sarei arrivato anche se pian pianino. Dunque, il contributo delle registe donne è estremamente importante. Estremamente importante perché direi non è solo il fatto che in quanto donne l'esperienza di genere permette di visualizzare o di proporre dei temi che registi uomini tratterebbero differentemente. Va al di là di questo, perché ecco, prendiamo degli esempi concreti. Una delle grandi registe palestinesi, Anne-Marie Jassir, incarna, direi oggi, uno dei simboli femminili dei registi palestinesi. Che da un punto di vista sia dei contenuti narrativi che dell'estetica dei propri film, fa dei suoi film dei film da premi a Hollywood, a Cannes, che d'altronde sono stati premiati pure. Quindi mi riferisco ad esempio a un film, Anne-Marie Jassir, che questo raccomanderei senza dubbio. In inglese il titolo è The Salt of This Sea, cioè il sale di questo mare. Che è una fiction che racconta la storia di una ragazza palestinese che cresce negli Stati Uniti a Brooklyn e cresce con tutti i miti sulla Palestina che le sono raccontati dalla famiglia palestinese negli Stati Uniti e decide finalmente di partire in Palestina a scoprire questa Palestina. E va in Palestina e incontra un ragazzo a Ramallah, di cui boh, insomma, c'è anche una storia d'amore, no? Che le dice: Ma insomma, tu vieni qua e mi dici quanto è bella questa Palestina. E dice, ma questa Palestina fa schifo. Io qua sono in prigione. Ma che idea c'hai della Palestina? Allora, non le dico di più. Ma lì si mette in moto tutta una storia molto carina, tra l'altro, di loro due più un amico del ragazzo che fanno un colpo in banca, che riescono a fuggire in Israele per andare a vedere il mare, perché lui non ha mai visto il mare, questo ragazzo, no? Vabbè, adesso va, non vorrei dire mai. Bellissimo film. Della stessa regista ho visto, quando è venuta a Firenze, nel 2018, Sì. il film Ouagib, Sì, finito bellissimo. matrimonio, dove gli attori c'era Mohamed e Saleh Bakri. Esattamente. Saleh, il figlio di Bakri, c'era lì presente Sì. a questa manifestazione di Middle East Now. Sì. No, guardi, Wajid è l'ultimo film che ha fatto Anne-Marie, che è veramente notevole. È un po' il suo primo film al di fuori della Cisgiordania. Perché racconta, come lei che l'ha visto lo sa, la storia dei palestinesi in Israele attraverso una relazione padre-figlio, che non è solo sullo schermo, ma ugualmente nella realtà, Mohammed e Saleh Bakri. E wajib vuol dire l'obbligazione, Dovere. il dovere. E contrasta ugualmente tra la vecchia generazione dei palestinesi di Israele, Mohammed Bakri, e la nuova generazione che, nel caso del personaggio del film, è immigrata in Italia, a Roma, non è sposato, insomma. No, questo è un film veramente importante perché mette in luce ugualmente le difficoltà di cosa vuol dire essere palestinese, cittadino palestinese di Israele, chiaramente. No, grande film anche questo, Wajib. Senta, un'altra domanda. Esiste una produzione filmica che nasce dalla cooperazione di registi palestinesi e israeliani? Beh, per il momento no. Cioè, lo Stato di Israele, il Israeli Film Fund, il fondo di produzione, ha a lungo finanziato dei film palestinesi. Questo fa anche parte della politica israeliana, cioè dimostrare come Israele è uno Stato democratico e che quindi può finanziare ugualmente dei registi che non sono ebrei, che sono palestinesi, per la bellezza della cultura e del cinema. Ecco. Però negli ultimi anni tutti i registi palestinesi rifiutano sistematicamente di ricevere fondi dall'industria israeliana e quello che è importante sottolineare è che fino al 2012, cioè fino a quando la Palestina non era stata riconosciuta dalle Nazioni Unite come stato membro degli Stati Uniti, cioè come si dice, uno stato non membro, ma membro, come dire, osservatore alle Nazioni Unite, allo stesso titolo del Vaticano, e quindi i registi palestinesi di Israele non avevano diritto di rivendicarsi in quanto palestinesi, ma solo israeliani. E questo fu il caso, ad esempio, di Elia Suleiman, quando con il suo film Intervento Divino a Hollywood gli dissero: ma guardi, la Palestina non esiste nella lista degli stati che noi conosciamo, quindi lei verrà catalogato come israeliano. Più recentemente Suha Raf, un'altra regista palestinese di Israele, eccetera. Quindi per il momento la coproduzione è difficile, politicamente quasi impossibile. C'è però una nuova serie che si chiama Our Boys, che è uscita l'altro anno, dove c'è un regista israeliano e quello che ha scritto lo script dello sceneggiatore della serie televisiva è Sharif Waked, un palestinese di Israele. Facciamo un altro breve intervallo musicale e poi riprendiamo per la parte finale. In questo intervallo musicale ascoltiamo parte del trailer del film Wajib, Invito al matrimonio, film tutto palestinese della regista Anne-Marie Jassir con Mohamed Bakri, Saleh Bakri, del 2017. اهلا ابو شاش احنا من جايين نزعجكم بس حابين تشرفونا على عروس امان بس الواجب واجب يسلموا ايديك سايقين بعدنا عم نوزع المكاتيب بعد لنا بس 340 مكتوب مجبورين بيت على الطريق النصراوي يا ريتك معنا هون عليك ساكن مع سلمان اسمها ندى يابا كيف امريكا ايطاليا يلا بهمش أبوك حكى لنا إنه عم بتفكر ترجع مزبوط؟ لهون؟ لا في مستشفيات كتير منيحة هون أنا أركيتكت يعني مهندس عمار؟ يعني هو بفكرني دكتور يعني كذبت عليه أنت بتعرف أبو رامي يضلوا يحكي عنك كتير رافع راسه فيك لو أبوي كان يضل يحكي عني هيك أمي يمكن ما تجيش أنا هبلة كنت لازم أعرف من الأول عرس بنتها شو هالحكي هذا مش هذا دايما احنا اخر ناس جوزها عم بيموت احلى عروس شكرا بابا كنت ساكن بعين المستوطن وانا يا ابي مستحيل اعز مع عروس اختي يابا هذا الزلمه شباك اطلع السياره اعند من امك شو السهرة ب 18؟ لا عم تمزحوا وين عن الدنيا Riprendiamo il discorso e, sempre su questa cooperazione fra registi israeliani e palestinesi anche qui si vede la presenza delle registe donne. Allora, direi due cose. Da un lato c'è un contributo estremamente importante di attori e attrici palestinesi nel cinema israeliano e palestinese. E diciamo le due nomi che sono conosciuti internazionalmente, una è Hiam Abbas, grande, grande attrice palestinese, in Italia sicuramente conosciuta per un film che si chiama L'albero dei limoni, The Lemon Tree, e l'altro è chiaramente Mohammed Bakri, che è un po' il Mastroianni del cinema palestinese, lui e suo figlio, sono tutti e due bellissimi, ecco, grandi attori. Quindi dal punto di vista della collaborazione degli attori, sì. Dal punto di vista dei registi, e venendo alla questione delle registe, la situazione è un po' analoga a quella dei registi uomini, cioè c'è tutta una serie di registe donne, e allora penso in particolare ad esempio a Ibtissam Marane. Ibtissam Marane è una regista palestinese di Israele molto interessante, perché ha fatto una serie di film, dei documentari, dove lei stessa palestinese ha una storia con un ebreo canadese che ritorna, fa la sua alia in Israele e filma tutta la sua storia con questo. Fa un altro bellissimo documentario che si chiama Paradiso Perduto, su Fureyde, che era il villaggio di origine della famiglia che è stato distrutto, eccetera, eccetera. E quindi lei, oppure Suha Raf, che è un'altra notevole regista palestinese di Israele, che ha fatto dei documentari ottimi sulle donne dello Hamas, che ha fatto altre cose sulla realtà delle donne in Israele. Questi sono, come dire, dei registi che vivono tra l'incudine e il martello, perché sono sia criticati dalla società palestinese che dalla società israeliana. Quindi si trova in una situazione spesso molto inconfortevole. E direi, per riassumere, se rispetto alla tripartizione che avevo fatto prima tra i registi palestinesi di Israele, quelli della Palestina storica e quelli della diaspora, quello che caratterizza registi e registe palestinesi di Israele è una domanda, in fondo, è di dire: ma perché noi siamo rimasti? Cioè, perché noi non abbiamo lasciato la Palestina diventata Stato israeliano alla guerra del 48? E se siamo rimasti, perché siamo rimasti? E quali tipi di compromessi noi dobbiamo affrontare? Cioè, tutta una parte della filmografia di Michel Clefy gira attorno a questo, come quella di Salim Do, che è un altro grande attore e anche regista palestinese. Quindi questo segna anche un, come dire, uno hiatus importante rispetto agli altri registi palestinesi o della Cisgiordania di Gaza o della diaspora, di cui non ho ancora parlato molto, ma nella diaspora abbiamo dei favolosi registi palestinesi in Libano, in Giordania, in Siria e poi in Europa, che sono tutti registi che intrattengono relazioni regolari con la Palestina storica. Vorrei solo citare un film di un regista che adesso alla quarantina, 40 anni, giovane, molto in gamba, Mahdi Flefel, che ha fatto questo bellissimo film che si chiama A World Not Ours, un mondo che non è nostro, che attraverso la storia di un campo di rifugiati in Libano ripercorre la storia non solo del campo, ma ugualmente della gioventù nel campo, perché lui da bambino, lui è figlio di rifugiati palestinesi e vive in Danimarca, ma ogni anno durante le vacanze estive torna a Ain Helwe. Ain Helwe è uno dei campi palestinesi politicamente più caldi in Libano, e lui filma in un modo tra l'altro anche molto scherzoso, perché concentra il suo sguardo su cosa succede negli anni al momento del World Cup, dei campionati mondiali di football, e come il campo si divide tra i palestinesi pro-brasiliani, pro-italiani, pro-tedeschi, eccetera. È molto divertente, ma mette ugualmente in scena cosa diventa la giovinezza, la gioventù palestinese attraverso il processo di Oslo e poi tutta la debacle, diciamo. Senta, proprio per la gioventù, Esiste una produzione di cine di animazione per i ragazzi nella fascia dell'adolescenza? Allora sì, penso a due film. Il primo sarebbe quello di Yahya Al-Abdallah, che è un regista palestinese che vive in Giordania, che ha prodotto una serie di film, uno in particolare, e particolarmente mi sembra adatto per degli studenti delle scuole medie, perché lui mette in scena la creazione, con dei ragazzi che non sono degli attori professionali, ma che sono dei bambini, di un campo di rifugiati ad Amman, sulla creazione di un parlamento dei giovani nel campo dei rifugiati. È veramente super interessante, perché convoca dei temi e delle questioni di valori che non sono solo palestinesi, ma che a mio avviso possono interpellare opportunamente ugualmente dei ragazzini italiani, a meno che di altrove. Un altro film che mi sembra ugualmente buono, recente, si chiama Wardi. Wardi in realtà è stato fatto da un regista norvegese che ha passato un anno, ha fatto una ricerca di tipo etnografico, direi, prima di fare il film. Ha fatto questo film a cartoni animati attraverso la storia di una bambina che si chiama Wardi, cioè la mia rosa, tradotto letteralmente dall'arabo, e la bambina vive in questo campo. Lei vuole diventare dottoressa, eccetera, una bambina che ha 7-8 anni, ed ha una relazione particolare con il nonno, e il nonno le racconta la storia dei rifugiati. Questo film ha questa bella specificità di non essere un film classico sulla miseria dei rifugiati, sull'abbandono, sulla tragedia. No, è molto vivace e dà un senso del ruolo proattivo che possono avere i rifugiati e i bambini ugualmente in una situazione voilà, che è quella di marginalizzazione economica, politica, eccetera. Questo film, guardi, lo consiglierei largamente. Ecco, per quanto riguarda invece adulti, ci può indicare dei titoli disponibili in italiano e dei film che lei raccomanderebbe? Con grosso piacere. Direi, per cominciare, che ecco, io adesso le darò dei titoli, alcuni in italiano, altri in inglese, perché non conosco il titolo in cui il film è stato tradotto in italiano, però c'è un posto per ecco, i fiorentini almeno, perché l'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese comporta una ottima DVD-teca, e il suo organizzatore Giacomo Graziani, che ha fatto in questi ultimi anni un lavoro fantastico per mettere a disposizione di un pubblico italiano vari film sulla questione palestinese. Ecco, io direi, le darei volentieri quattro titoli di film, diciamo, indispensabili, quattro titoli di film magari da proiettare più recenti nel dopo coronavirus, e poi direi quattro shorts, anche delle cose un po' divertenti, meno drammatiche, ecco. Ma i quattro film direi indispensabili sono Nozze in Galilea, di cui ho parlato, di Michel Clefy, Salt of the Sea di Anne-Marie Jassir, di cui ho pure parlato, Intervento Divino di Elias Lehmann, è il film con cui Elias Lehmann è diventato celebre. E questo è assolutamente da non mancare, perché lo humor al secondo o terzo grado di Elias Lehmann è semplicemente fantastico. È un film che è uscito durante la seconda intifada e voilà, non anticipo sui contenuti, ma veramente gran film. E poi direi, sempre degli incontornabili, World No Towers, quello di Mahdi Flefel che menzionavo poco fa, come prodotto di un regista giovane nella diaspora. Poi Quattro film da proiettare nel dopo coronavirus, quindi dei film più recenti. Vabbè, abbiamo parlato di Wajib, che però mi sembra che l'avete già conosciuto a Firenze attraverso il festival. Poi c'è Tel Aviv on Fire, Tel Aviv in fuoco. Questo è un film dell'anno scorso di Sameh Zoabi e questo è voilà, uno dei primi esempi delle commedie palestinesi, di un nuovo genere di cinema palestinese. Un cinema palestinese che nonostante le condizioni di occupazione ha uno humor su se stessi geniale, ecco. Quindi Tel Aviv on Fire, poi il nuovo film di Suleiman, It Must Be Heaven, deve essere il paradiso, questo è un altro capolavoro premiato l'anno scorso a Cannes. E l'altro, un vero gioiellino di Amer Shomali, che si chiama The Wanted 18. Questo è oltretutto un'avventura ugualmente tecnica, perché nel film mescola documenti dell'epoca, disegni animati e una fiction attraverso una storia reale che succede durante la prima intifada, cioè i palestinesi decidono di boicottare i prodotti israeliani e quindi comprano delle mucche, 18 mucche, il titolo The Wanted 18. Queste 18 mucche sbarcheranno a Beit Sahur, in un villaggio cristiano in Cisgiordania, e cosa succede? Che a un certo punto il comandante della regione dell'occupazione militare va dal sindaco di Beit Sahur e gli dice: per ragioni di sicurezza noi dobbiamo sequestrare le mucche. E questo dice: no, ma non si preoccupi, per ragioni di sicurezza ci pensiamo noi, le eliminiamo. In realtà cosa fanno? E questo fa parte della storia vera, i palestinesi non uccidono le mucche ma le nascondono. E l'esercito israeliano per 3 anni diventerà pazzo a trovare queste mucche. Quindi Amer Shomali fa questa fiction molto divertente e molto bella, esteticamente parlando pure, che veramente consiglio di vedere, perché anche lì dà un'altra visione non solo della storia della prima intifada rivista con gli occhi di oggi, ma anche con una certa distanza, anche con un certo humor, a partire da fatti reali che non nascondono. E poi la cosa divertente, perché avevamo invitato a Ginevra Amer Shomali e gli avevo chiesto un po' come è andato, no? La possibilità di filmare in Palestina occupata questo film. E lui mi diceva: guarda, è stato abbastanza divertente, perché non solo abbiamo dovuto metterci d'accordo con gli attori non sono professionali, sono in realtà i figli e le figlie di quelli che durante la prima intifada erano i veri attori della situazione. E però poi bisognava anche dividerli fra quelli che giocavano il ruolo degli israeliani e quelli che giocavano il ruolo dei palestinesi. Nel caso dice che Amer Shomali mi diceva: durante il weekend, quando giravamo delle scene, abbiamo avuto fino a 2000 persone che venivano in famiglia ad assistere sul set, perché raccontava una parte della storia del villaggio e della regione. Ecco, lei ci ha dato una serie di titoli di film e ci ha parlato di diverse produzioni cinematografiche. Lei ha scritto qualche cosa a questo proposito ed è reperibile qualche cosa di scritto che riguardi queste cose? Sì, guardi, ho scritto varie cose, principalmente per il momento degli articoli, e ho in cantiere un libro che uscirà nel 2021, che si chiama Screening the Israeli-Palestinian Conflicts, e che sarà un libro dove racconto il cinema palestinese e israeliano a specchio, cioè come le due filmografie nel tempo, piuttosto di essere competitive nel senso di avere una propaganda l'uno contro l'altro, sono piuttosto complementari. Più recentemente per Il Ponte, dunque questa rivista importante, cioè, non perché ci abbia pubblicato un libro, ma insomma Il Ponte è una rivista storica di Firenze fondata da Piero Calamandrei nel 1945, c'è stato un numero speciale intitolato Palestinesi che ho curato con Franco Bini, Barbara Gagliardi e Wassim Dahmash, e a questo numero ho contribuito con un testo che fa eco a un film a cui ho partecipato, un documentario sul periodo 1894-1948, cioè il periodo tra gli inizi del sionismo e la creazione dello Stato israeliano. E in questo testo propongo un'analisi di tutta una serie di film prodotti da palestinesi, da israeliani, prima e dopo il 48 su questo periodo storico. Però sto curando attualmente un altro volume per Il Ponte che uscirà nel settembre di quest'anno, sarà un volume in inglese, un ebook, dove ci saranno 5 testi sul cinema palestinese, non solo miei ma anche di altri autori palestinesi e internazionali, e quindi se avremo l'occasione potremo riparlarne un'altra volta. Allora, ci sono, vorrei menzionare quattro metraggi che sono molto belli, sono anche di una nuova generazione di registi e registe palestinesi. Il primo si chiama Nation Estate, Nation Estate come proprietà, cioè proprietà nazionale, ed è un film di Larissa Sansour, una giovane regista palestinese che vive in Danimarca, che ha al suo attivo vari cortometraggi, e questo è particolarmente interessante soprattutto del dibattito politico attuale sul divenire della Palestina, perché lei si immagina cos'è la Palestina nel 2050. Nel 2050 la Palestina è un grattacielo attorniato da un muro, tutto attorno è Israele, si accede al grattacielo con un underground a partire da Amman, un treno sottoterra, e il grattacielo, che ha 50 piani, è diviso in vari piani, cioè lei schiaccia il primo piano, arriva a Betlemme, secondo piano a Gerusalemme, terzo piano a Ramallah, quarto piano eccetera eccetera. Quindi, no, questo è davvero, sono 12 minuti splendidi. Poi c'è un altro che si chiama Ave Maria, 14 minuti di Basil Khalil, questo è buffissimo perché racconta la storia di una coppia con la madre di lui che sono dei coloni palestinesi, e il venerdì sera, quindi sta iniziando lo Shabbat, sono in macchina, tornano, devono tornare nella loro colonia, ma la macchina si rompe in un incidente e finiscono in un convento di clausura dove le monache chiaramente non parlano, questi chiedono aiuto per aggiustare la macchina e arrivare in tempo per l'inizio del Shabbat. Non vi dico di più, è buffissimo, bellissimo. Guardi, Ave Maria la sappiamo a memoria come la preghiera, perché è un cortometraggio che noi mandiamo sempre quando facciamo gli incontri sulla Palestina, perché è di una ironia così divertente che strappa veramente le risate, anche se abbiamo parlato di argomenti molto più così seri e pesanti. Poi c'è un altro che è pure divertente, che si chiama Occupa Zion, cioè invece in inglese di Occupation, il titolo è Occupa Zion, Occupa Zion, ed è, sono 10 minuti di questa cosa, di Inas Mudaffar, che è una regista palestinese. E cosa fa lei? Inverte le posizioni, cioè invece di essere i palestinesi che sono occupati dagli israeliani, sono i palestinesi che occupano Israele, e quindi sono loro che hanno il checkpoint, e ci sono gli israeliani che sono le vittime, e quindi gli israeliani che sono intervistati dalla stampa internazionale che dicono: guarda, ci hanno fatto il muro, ci mettono qua, guarda come ci trattano ai checkpoint, e questi gli parlano in arabo, gli dico: ma come, tu non parli arabo? Ma vai alla fine della fila. Cioè, è molto divertente. L'ultimo, che vale anche veramente la pena, è La pietra di Salomone, Solomon Stone, di Basil Khalil, 25 minuti. Questo è geniale perché è la storia di uno che riceve un giorno a Gerusalemme un avviso dalla posta locale di presentarsi alla posta, che ha un pacco per lui. Questo va alla posta e questi gli dicono: sì, guardi, c'è questa cosa che è una roba grande, pesante. Lui non aspetta niente, dice: ma cosa? Guardi, se vuole $10,000. Insomma, questo si mette d'accordo, si fa prestare solo e prende questo pacchetto, lo porta a casa. E cosa c'è? C'è una grossa pietra. E all'idea geniale dice: sì, ma questa è la pietra di Salomone. E quindi crea una specie di museo a casa sua, dove arrivano tutti, turisti, israeliani, palestinesi, no? E lui cosa fa? Mette tanto biglietto di entrata e fa soldi, quindi ripaga e dice: non vi dico di più, è bellissimo. C'è anche un gruppo di turisti italiani che va lì. In questo intervallo ascoltiamo parte della colonna sonora di Paradise Now. La regia è di Ani Abu Assad. Il film è una cooperazione tra Germania, Paesi Bassi, Francia ed è stato premiato al Festival di Berlino del 2005. Ha vinto inoltre anche un premio al Golden Globe. La colonna sonora è di Gina Soumedi, giovane compositrice e attrice olandese. Forsaken by hope. In a culture searching for its place. Lifelong friends will struggle with an impossible choice. Beneath an orange sky. This fall, Warner Independent Pictures takes you to the streets of Palestine. With my brother standing by. Where one moment can change the world. Brother, you know it is, you know it is. Such a long road we've been walking on. Sometimes, sometimes my mind is too. We want to go back. Carry on. Paradise Now. Ma insomma, ovviamente portavo un po' fuori l'argomento. Per quanto riguarda il discorso del cinema, mi piacerebbe sapere quali sono i film che trattano anche dell'aspetto religioso. L'aspetto religioso, diciamo, dell'Islam viene come viene visto nel cinema, sia dal cinema palestinese sia invece da quello che appunto il cinema occidentale come lo affronta, perché ovviamente siamo ancora nell'ambito del conflitto. Questo è un capitolo in sé ed è molto interessante perché Tra l'altro c'è tutta una serie di film sulle donne che sono in Hamas, film fatti da registe palestinesi e da registe israeliane, che intervistano e ricostruiscono i percorsi biografici delle donne di Hamas. Poi c'è altri film super interessanti ugualmente, ce n'è uno in modo particolare che dunque i martiri, tra virgolette, che si fanno esplodere, quando partono in missione, prima di partire in missione, in genere sono filmati. Sono filmati e dicono le loro ragioni, dicono, insomma, raccontano perché quello che fanno. E c'è un regista palestinese che ha raccolto vari di questi spezzoni, ne ha fatto un documentario super interessante. Poi ci sono vari altri film che trattano dell'Islam a vari livelli, ad esempio ce n'è uno molto bello che sicuramente avete visto, che è di un regista libanese, Ziad Doueri mette in scena in realtà un romanzo di Yasmina Khadra che si chiama L'attacco. Questa è la storia di una donna palestinese sposata con un palestinese di Israele, vivono a Tel Aviv, lui è un medico reputato, eccetera, eccetera. Cosa succede? Che lui un giorno è in ospedale, c'è un attacco suicida e portano i resti della gente in ospedale. E chi c'è fra i resti della gente? Sua moglie, che si è fatta esplodere, cioè la moglie e il suicide bomber. E quindi lui decide di fare un'inchiesta su perché sua moglie, una donna normale, insegnante, tutto quello che c'è di più, decide a un certo punto di diventare una terrorista e di farsi esplodere. E questo lo porta a andare nei luoghi dove Hamas oppure le brigate Izzeddin al-Qassam, a meno che il jihad islamico, eccetera, organizzano i loro attacchi suicidi. In parallelo a questo c'è un altro bellissimo film, questo tra l'altro è stato anche Feltrinelli a vari film palestinesi che ha tradotto in italiano, no? Questo film di Hani Abu Asad che si chiama Paradise Now, Paradiso Adesso, questo è un altro pezzo geniale perché racconta la storia di due giovani che loro non sono degli islamici, loro però loro fanno parte del fronte democratico, però decidono di farsi esplodere. Qui è una fiction, mette in scena tutto il processo di come loro vengono reclutati, di come vengono formati al suicide bombing, eccetera, eccetera, eccetera. Poi non vi dico la fine perché questa è ancora un'altra cosa molto divertente, ma insomma Paradise Now è un altro film molto bello sui suicide bombers che fa eco in chiave, tra virgolette, laica alla questione del suicidio religioso, diciamo, no? No, vi rispondo così a primo acchito, bisogna che cerchi nei miei archivi e c'è un sacco di roba su quello, non è un problema. Poi c'è anche, come dire, c'è un short molto bello fatto da, non mi ricordo più chi, ma che è la storia della prima donna suicide bomber palestinese. È una fiction, di un cortometraggio di 20 minuti, molto ben fatto. Questo è anche un altro esempio di come, cioè chiaramente il tema dei suicide bombers ha un ruolo importante perché è un dibattito di società in Palestina e al di fuori della Palestina, ecco. Bisogna anche vedere, quello che è interessante è di vedere anche la contropropaganda israeliana. C'è un regista ebreo americano e israeliano che si chiama Pierre Rehov, R-E-H-O-V, cioè questo lavora per il Mossad. Pierre Rehove ha fatto tutta una serie di film sugli islamici e i suicide bombers. È una propaganda pro-israeliana eccezionale. Da vedere, cioè, bisogna che poi non sono dei grandi film, però sono questi film che... Ah, sì, no, poi ce n'è uno bellissimo. The Green Prince, Il Principe Verde. Questa è una storia vera, fatta in fiction. Il Principe Verde chi è? È il figlio di uno dei capi di Hamas a Gaza. Questo viene reclutato come collaboratore e per anni questo dà informazioni agli israeliani su chi e come uccidere tra i leader di Hamas. Questa è una storia vera. Tra l'altro, The Green Prince vive attualmente sotto falso nome negli Stati Uniti. Questo è un altro bel film. Questo esiste anche in italiano, in DVD. Questo l'ho visto in Italia. Come DVD, io ce l'ho, ma in formato inglese. Noi sì. Staremo a ascoltarlo per giorni interi, nottate intere. Vediamo come va lo spazio di questa trasmissione. Si è esaurito, quindi veramente mi auguro di poter avere un altro incontro con lei su un argomento specifico, perché mi rendo conto che ci sono tanti filoni interessanti come questo che ha accennato e di cui ha parlato lei in campo religioso, quindi veramente rivedremo. Sì, su quello c'è. Poi però questo detto, come dire, per me il cinema è sempre stata una passione, il cinema palestinese e non solo, cioè il cinema in generale. Però ecco, questo è il mio ultimo soggetto di ricerca, perché è solo da 7 anni che lavoro su sta roba. Per anni io ho lavorato sulle questioni dei rifugiati palestinesi, sulle questioni dell'aiuto umanitario in Palestina, sull'UNRWA, su queste cose qua, per cui, e continuo a lavorarci peraltro, però secondo quello che vi interessa sono a vostra disposizione. Beh, grazie. Riccardo, senti, quando fai un salto a Firenze vieni a stare a casa mia, sto in centro e... L'ostio volentierissimo. Sono venuto l'altro anno perché Giacomo e l'associazione che erano agli Arci mi hanno invitato e avevo proiettato questo film a cui partecipo che si chiama Israele fu. Questo magari ve lo mando. Che è un documentario molto carino fatto da Romed Weider Giacomo ha sottotitolato in italiano, perché all'origine è in inglese e in francese, ma Giacomo l'ha sottolineato, l'ha proiettato a Firenze e poi io ho fatto un dibattito su quello, insomma. Per cui mi era capitato di venire a Firenze in quell'occasione. Ma ve lo mando subito, così. Io adesso ho l'indirizzo di Claudio, lo mando a Claudio e lui ve lo gira. Certo. Ah, benissimo. Certo. Sì, certo. Okay. Abbiamo contatti anche con Giacomo, ma comunque... Sì, adesso sto preparando con un altro regista un nuovo documentario sull'UNRWA e i rifugiati, che dovrebbe uscire in autunno. Avrei dovuto uscire prima, però dato il coronavirus abbiamo dovuto bloccare una serie di proiezioni, cioè di interviste, eccetera. Ma questo promette di essere anche buono, insomma, te lo passerò. Ok? Allora ci diamo appuntamento per l'autunno, perché mi sembra carico di cose veramente molto interessanti. Grazie Riccardo, grazie moltissimo, è stato molto piacevole. Sì, reciproco. Grazie a voi, a presto. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie. Nel nostro ultimo intervallo musicale vi presentiamo il film di Eran Reiklis, Il giardino dei limoni, una collaborazione tra Israele, Germania e Francia del 2008, con la famosa attrice Iyam Habas. Il conflitto tra Israele e Palestina, visto con gli occhi di una donna coraggiosa che non rinuncia alla sua terra.